Concentrazione Democratica Nazionale, Concentrazione Democratica Liberale, l'Uomo Qualunque e il Partito Democratico Italiano, le squadre d'azione Mussolini, i gruppi di azione monarchica e il Movimento Unitario Nazionale. I fascisti poi tentarono di convincere il re a sostenere una sortita insurrezionale prima del referendum Monarchia-Repubblica. Per le strade di Venezia, Ivrea, Casale, Torino, Milano, compaiono le cosiddette auto fantasma, che fanno fuoco in corsa contro le sedi dei partiti di sinistra. È in questo contesto che a Lambrate, un quartiere di Milano, nel maggio del 1945 nasce la Volante Rossa, Martiri Partigiani, una formazione costituita da ex partigiani provenienti da alcune brigate garibaldine che non deposero le armi a Liberazione avvenuta e intesero proseguire la lotta armata contro i fascisti che intendevano riciclarsi e proseguire impunemente la propria attività politica. Il comandante della Volante Rossa fu Giulio Paggio, originario di Saronno, nome di battaglia Alvaro. Il nome della formazione viene preso da quello di un reparto di partigiani garibaldini che operava nella zona dell'Ossola alla fine del 1944 fino alla Liberazione. Le modalità operative saranno quelle adottate dai GAP durante la Resistenza. All'inizio la Volante Rossa poteva contare su circa 50 uomini, ma il nucleo clandestino era più ristretto, per lo più operai, soprattutto degli innocenti, dove lavorava anche il comandante Paggio come guardia giurata. Sono tutti molto giovani. Come molti a quel tempo, i militanti della Volante Rossa guardano alla Resistenza come a un cammino rivoluzionario interrotto. Nell'estate del 1945 gli operai sono ancora padroni delle fabbriche. La polizia ausiliaria è formata prevalentemente da partigiani e l'esercito è disorganizzato, ma i ritardi dell'epurazione dei fascisti esasperano gli antifascisti, che vorrebbero sbarazzarsi non solo dei fascisti, ma anche di coloro che hanno avuto e continuano ad avere un atteggiamento antioperaio. Alla Casa del Popolo di Lambrate, la Volante Rossa organizza per tutta l'estate del 1945 feste danzanti, gite domenicali, escursioni alpinistiche e attività sportive. Ben presto, però, le attività ricreative diventano una valida copertura delle azioni armate. Questo tipo di attività fu un fenomeno diffuso che investe varie zone e associazioni partigiane, tanto da preoccupare il Partito Comunista. Il 21 febbraio 1946, infatti, l'unità mette in guardia dalle false organizzazioni sportive, che prendono spunto dal fatto che noi comunisti, nel periodo clandestino, chiamavamo lavoro sportivo il nostro lavoro militare, e in queste cercano di inquadrare militarmente degli uomini in buona fede. La Volante Rossa non era la sola formazione armata ad operare a Milano dopo il 25 aprile. Ve ne erano infatti almeno altre due, quella dell'Alfa Romeo e quella della Barona. Ascoltiamoci Bella Ciao nella versione di Francesco Guccini. Stamattina mi sono svegliato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Stamattina mi sono svegliato e ho trovato l'oppressore. Oh partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, partigiano, portami via, che mi sembra di morire. partigiano. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E muoio da partigiano. Tu mi devi seppellire, seppellire lassù in montagna. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Seppellire lassù in montagna sotto l'ombra di un bel fiore. Tutte le genti che passeranno. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Tutte le genti che passeranno ti diranno che bel fiore. A sgaluieto, tosse doiema. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Mi pari basso, mi è sciabemato e ti migevo d'amor. E questo è il fiore del partigiano, morto per gli Di fronte a una magistratura che rilascia i criminali fascisti, si fa strada nei membri della Volante Rossa la convinzione che sia doveroso fare giustizia e gli uomini di Paggio iniziano a intervenire. Le azioni vengono realizzate spesso utilizzando come mezzo di trasporto la bicicletta e seguono quasi sempre uno schema fisso. Non sempre partono con l'intento di uccidere. Il fascista di turno viene sequestrato e interrogato, poi viene messo in giudizio. Se dall'interrogatorio emergono pesanti responsabilità, ovvero se il sequestrato viene riconosciuto come un torturatore, una spia o ha compiuto atti particolarmente gravi, viene eliminato. Altrimenti, quando ci si trova di fronte a pesci piccoli, il prigioniero viene rilasciato con il consiglio di astenersi in futuro dall'attività politica. Inizialmente la Volante Rossa si dedicò soprattutto alla ricerca dei criminali fascisti rilasciati dalla giustizia ufficiale. Si trattava di un fenomeno comune in tutta l'Alta Italia. Nel primo anno di attività furono effettuate azioni nella clandestinità più assoluta ed è difficile sapere quante operazioni vennero compiute. Racconta uno degli appartenenti alla Volante Rossa. Alla Bianchi costruivano autocarri per l'esercito e quando ci serviva un autocarro ce lo consegnavano con l'autista, che era anche lui un compagno. Sull'autocarro ci si metteva una targa dell'esercito italiano e si partiva. Così, quando si incontrava un posto di blocco della polizia, non ci fermavano e si andava dove si doveva andare. Avevamo anche delle macchine, sempre targate esercito italiano. Così, vestiti da militari, ci potevamo spostare indisturbati. C'erano nuclei collegati alla Volante Rossa sia a Milano che fuori. Ce n'erano anche in Piemonte, ma erano ramificati soprattutto in Lombardia. Avere collaboratori ovunque non permetteva facilmente di risalire a chi effettuava l'azione. Ma il centro nevralgico dell'attività rimane Lambrate. Nel 1945 è una delle zone più industrializzate di Milano. Qui c'erano le fabbriche dell'Innocenti, della Castiglioni, della Risarginori, della Bezzi, della Faema ed altre ancora. E spesso gli uomini di Paggio vengono chiamati a risolvere qualche problema in fabbrica, come ad esempio far riassumere sindacalisti ingiustamente licenziati. La Volante Rossa inoltre aveva infiltrato alcuni suoi uomini nei movimenti neofascisti ed aveva anche dei collaboratori nella polizia. La formazione era divisa in più livelli, il nucleo ristretto al quale appartenevano pochi e fidati uomini è quello in cui venivano prese tutte le decisioni dell'attività illegale. Il secondo gruppo di supporto veniva utilizzato nel corso di azioni che richiedevano meno segretezza e più partecipanti, come le devastazioni di sedi fasciste, gli scontri di piazza e le occupazioni delle fabbriche. Per evitare infiltrazioni da parte dei neofascisti e delle forze dell'ordine, gli appartenenti al secondo livello avevano un tesserino rosso di riconoscimento. Il terzo gruppo, infine, è costituito dall'insieme di tutti gli iscritti e si riunisce in occasione di manifestazioni partigiane e commemorazioni di caduti. Ed ora ascoltiamoci Siamo sempre partigiani, del Canzoniere delle Lame. Era il suo paese, la storia che racconto è di tanti anni fa, ma vennero i fascisti e lui lasciò la casa, abbandonò il paese, lontano se ne andò. Combatteva con dei nuovi compagni, sognava il suo paese, tornato in libertà. Tornò da partigiano, un'arma per compagna, morì nel suo paese, trovò la libertà. Dei quali non sta scritto il nome dentro i libri, tante storie così, ma il popolo la storia fa senza generali, la scrive tutti i giorni anche se non lo sa. Quest'Italia l'han fatta i partigiani, restate nelle fogne, il posto qui non è. Compagni, stiamo attenti, siamo sempre partigiani, la scelta l'abbiamo fatta anche per il domani. Compagni, stiamo attenti, siamo sempre partigiani, la scelta l'abbiamo fatta anche per il domani. Alla fine dell'estate 1945 si chiude una prima fase e gli uomini della Volante Rossa non effettuano azioni per alcuni mesi. Sarà in risposta alla riorganizzazione e agli attentati neofascisti che alla fine del 1945 la Volante Rossa riprende a colpire. Il 13 dicembre 1945 viene arrestata una banda delle SAM, le squadre d'azione Mussolini. Nel loro covo gli agenti trovano mitra, bombe a mano ed esplosivi. L'8 gennaio 1946 vengono arrestati 14 membri del gruppo fascista Calcagno, trovati in possesso di cariche di tritolo. La notte del 26 gennaio vengono arrestati a Lecco e Como 27 membri delle SAM. Il 29 gennaio viene scoperto un governo clandestino di neofascisti in cui compaiono militi della MUTI e della Guardia Nazionale Repubblicana. ora riuniti nel Movimento Nazionale Italiano, che hanno creato una rete di contatti con altre organizzazioni del Nord Italia, tra cui il Partito Democratico Fascista. Il 2 gennaio la Volante Rossa colpisce Giulio Vaiani, membro delle Brigate Nere, durante la Repubblica di Salò. Viene ferito al torace e alle gambe da una sventagliata di mitra. Il 27 gennaio vengono ritrovati i corpi di Orio Caligiani e di Sergio Luparia, appartenenti alle SAM. Lo stesso giorno, al cimitero di Sesto San Giovanni, viene trovato il corpo del commerciante Orlando Assirelli, che ha militato nel partito fascista a Pisa ed ha ucciso un antifascista a colpi di bastone, delitto per il quale non è mai stato processato. La sera del 6 febbraio Enrico Meneghini viene prelevato dalla sua abitazione da due uomini armati. Durante il periodo repubblicano Meneghini ha militato in un reparto di paracadutisti. Il suo corpo verrà ritrovato due giorni dopo con un foglietto sul corpo su cui è scritto «Così si pagano quelli delle SAM». Il 6 marzo Emilio Sereni, dirigente del PC, sfugge a un agguato teso da membri di un gruppo monarchico e il 5 aprile Giuseppe Di Vittorio scampa a un attentato di aderenti dell'Uomo Qualunque. Nei primi giorni di aprile Giulio Paggio, mentre esce di casa per recarsi al lavoro, con la coda dell'occhio nota un individuo fermo lì di fronte, in piedi, accanto a una bicicletta. Si insospettisce e così si salva la vita. L'uomo infatti gli lancia contro una bomba a mano, ma Paggio riesce a rifugiarsi dentro un portone e rimane illeso. Nella notte tra il 22 e il 23 aprile viene realizzata la cosiddetta Operazione Italia. Cinque aderenti al Partito Democratico Fascista, guidati da l'ex repubblichino Domenico Leccisi, trafugano la salma di Mussolini dal cimitero di Musocco. La sera del 23 viene assaltata la Camera del Lavoro di Milano. Tre fascisti sparano ferendo gravemente Stella Zuccoletti, membro del comitato direttivo della Lega Portinai, che morirà tre giorni dopo. Il 9 maggio viene fatto un nuovo attentato a colpi di pistola e raffiche di mitra contro due giovanissimi ex partigiani. Nelle settimane precedenti al referendum monarchia-repubblica, gli attentati neofascisti si moltiplicano. Il 17 maggio, dopo l'ennesima bomba fascista, la squadra politica della Questura di Milano arresta i componenti del comitato esecutivo del Partito Democratico Fascista. Il 21 maggio la polizia sventa un piano antireferendum la cui attuazione era prevista per il 26 maggio. Ne sono artefici aderenti a Schieramento Nazionale e al Movimento Tricolore. Il piano prevedeva una grande manifestazione a favore del re. I neofascisti avrebbero in seguito aperto il fuoco su eventuali cortei di protesta per riparare poi nelle caserme dove sarebbero stati equipaggiati e armati per poi uscire per le strade insieme alle forze regolari che li appoggiavano. Era inoltre previsto un falso attacco a un giornale monarchico da parte di militanti travestiti da comunisti, muniti di fazzoletto rosso, distintivi e tessere false da lasciare per strada. Il 22 vengono arrestati 30 aderenti al Partito Democratico Fascista, che pubblica il giornale Lotta Fascista e che a Milano risulta avere ben 33 cellule. Nella notte tra il 26 e il 27 maggio un nuovo attentato colpisce a Sesto San Giovanni la Casa del Popolo e sede del Partito Socialista di Unità Proletaria. Gli assalitori attaccano con bombe a mano e raffiche di mitra. Il 30 maggio viene attuata dai fascisti un'altra azione in Piazza del Duomo a Milano. Tre fascisti armati si avvicinano ai due operatori che preparano la pubblicità luminosa dell'edificio di fronte alla cattedrale. Sotto la minaccia delle armi li costringono a comporre la scritta «È uscito il terzo numero di Lotta Fascista. Leggetelo, viva il Duce! Il fascismo non è morto!». Mezz'ora dopo viene lanciato un ordigno esplosivo contro la sede della Federazione Provinciale Comunista a Porta Garibaldi. La notte del 1 giugno vengono lanciate bombe contro la tipografia del giornale L'Avanti e dell'Unità a Milano. 3 tipografi restano feriti. Sempre il 1 giugno viene abolito il Ministero dell'Epurazione e contemporaneamente sono stati ripristinati gli organi dello Stato temporaneamente sostituiti con cariche di designazione resistenziale. Tornano i funzionari di carriera, quelli che avevano operato durante il fascismo. I partigiani vengono espulsi dalla polizia. Nel 1960 ben 62 dei 64 prefetti in servizio sono stati funzionari durante il fascismo. Così anche 135 questori e i 139 vicequestori. Rimarranno solo 5 funzionari che parteciparono alla resistenza. Ed ora ascoltiamoci quei briganti neri della gang. E quei briganti neri m'hanno arrestato in una cella scura, m'han portato. Mamma, non devi piangere per la mia triste sorte. Piuttosto che parlare, vado alla morte. Mamma, non devi piangere per la mia triste sorte. Piuttosto che parlare, vado alla morte. E quando mi han portato alla tortura, legandomi le mani alla catena, tirate pure forte le mani alla catena, piuttosto che parlare torno in galera. Tirate pure forte le mani alla catena, piuttosto che parlare torno in galera. E quando mi portarono al tribunale, dicendo se conosco il mio pugnale, sì sì che lo conosco, al manico rotondo, nel cuore dei fascisti, lo cacciai a fondo. Sì, sì che lo conosco, al manico rotondo, nel cuore dei fascisti, lo cacciai a fondo. E quando l'esecuzione fu preparata, fucile e mitraglie eran puntati, non si sentiva i colpi, i colpi di mitraglia, ma si sentiva un grido, viva l'Italia. Non si sentiva i colpi della fucilazione, ma si sentiva un grido, rivoluzione. Non si sentiva i colpi della fucilazione, ma si sentiva un grido, rivoluzione. Non si sentiva i colpi della fucilazione, ma si sentiva un grido, rivoluzione. Inizia ben presto un attacco frontale ai partigiani, arrestati e processati per reati commessi durante la guerra di liberazione. Nei loro confronti non viene infatti adottato alcun dispositivo giuridico particolare per legittimare le azioni commesse durante la resistenza. Si applica semplicemente il codice penale Rocco del 1930 e sono i giudici che si erano formati durante il fascismo e non erano poi stati epurati che emettono le sentenze. Molti partigiani vengono condannati. Dopo il referendum monarchia-repubblica e le elezioni per l'assemblea costituente, in piazza si accendono scontri armati con la polizia, che inaugura la nuova tecnica dei caroselli. Gli scontri si protraggono per ore e il gravissimo bilancio finale è di 7 morti e 100 feriti. La Volante Rossa attacca e devasta la sede della Lega Unificatrice Patrioti Anticomunisti e del Movimento Tricolore. Alcuni fascisti finiscono all'ospedale. Il 22 giugno del 1946 il ministro della giustizia Togliatti vara un'amnistia che avrà come unico risultato quello di far uscire di galera i fascisti ancora reclusi. I fascisti amnistiati saranno 7.106, i partigiani solo 153. La Volante Rossa decise allora di dotarsi anche di un mezzo di trasporto adeguato e, ad un'asta di residuati bellici, acquistano un autocarro e gli dipingono sopra la testa di Garibaldi. E ad una fiera vennero acquistate quelle che diventeranno le divise ufficiali della Volante, giubbotti di pelle dell'aviazione americana per la divisa invernale e giubbotti di tela grigio-verdi per la divisa estiva. Sulla divisa, sopra il braccio sinistro, viene cucito un distintivo di stoffa con un triangolo rosso, dove è scritto «Brigata d'assalto Volante Rossa Martiri Partigiani» e disegnata una falce e martello. Avevano anche una bandiera rossa con una bomba a mano in mezzo e la scritta «Volante Rossa Martiri Partigiani». Sante Marchesi compose anche un inno che iniziava con queste parole: «Qui vi presento la Volante Rossa. Siamo partigiani di vecchie formazioni, di nuovo uniti per fare nuove azioni». La sera del 23 agosto alla Casa del Popolo di Lambrate è prevista un'assemblea generale di tutti i quadri del PC, cui partecipano altri partiti e organizzazioni antifasciste. Ma un informatore infiltrato nelle squadre d'azione Mussolini avvisa la Volante Rossa che i fascisti hanno intenzione di attaccare e che è stata piazzata una bomba nello scantinato, dove si dovrebbe svolgere l'assemblea. Dopo l'esplosione, le SAM sarebbero entrate per finire a colpi di mitra i sopravvissuti. Gli uomini di Paggio fanno spostare i compagni ai piani superiori. Un gruppo della Volante rimane lì, in alto, nascosto, in cima alle scale, per impedire ai fascisti di salire. Altri due gruppi si appostano all'esterno. I fascisti arrivano, circa 20, con un gruppo di supporto. Appena la bomba esplode, due degli assalitori accorrono per lanciarne altre, ma rimangono bloccati perché l'ingresso è molto stretto e vengono accolti da raffiche di mitra. Gli aggressori si danno alla fuga, mentre gli altri della Volante, nascosti in giardino, aprono il fuoco. Rimane in terra Euro Zazzi. La polizia ritiene sia stato colpito dai suoi camerati. Alfredo Portinari, ex Brigate Nere, viene catturato dalla popolazione e consegnato alla polizia. Qualche giorno dopo Portinari denuncia Bino Bini, l'infiltrato della Volante nelle SAM, come un suo complice. Interrogato dalla polizia, Bini non confessa di essere un infiltrato per non compromettere i compagni. Suo padre, convinto che il figlio sia un neofascista, si suicida. Il 10 ottobre a Milano l'onorevole comunista Scotti deve tenere una conferenza alla sezione del PC di Porta Genova. Il giorno prima, giocando nel corridoio dell'edificio, il figlio del custode di 5 anni trova in terra un involto. È una bomba messa dai fascisti. Quando tenta di aprirlo, l'ordigno esplode e il bambino muore dilaniato dalla bomba. Gli autori dell'attentato vengono infine identificati. Tra di loro vi sono anche i responsabili di un precedente attacco alla sede comunista di Niguarda. Soltanto un mese dopo un'altra bomba esplode, la notte dell'11 novembre, davanti alla sezione Venezia del PC, a cui appartengono alcuni membri della Volante Rossa. L'8 dicembre due bombe a mano vengono lanciate all'angolo fra Corso Lodi e via Bacchiglione, mentre sui sostegni del distributore di benzina di piazzale Loreto i fascisti affiggono manifesti inneggianti all'ESAM. Il 26 dicembre nasce ufficialmente il Movimento Sociale Italiano. Accanto al legale partito politico viene creato l'esercito clandestino anticomunista, che raggruppa formazioni paramilitari fasciste di cui la più importante sono le FAR, i Fasci d'Azione Rivoluzionaria, che a Milano dipendono direttamente dall'ex generale della milizia fascista Ferruccio Gatti. Il 2 febbraio 1947, dopo il rimpasto di governo, il nuovo ministro dell'interno Scelba accelera l'epurazione dei partigiani dalla polizia. L'operazione viene affidata al generale dei carabinieri Giuseppe Piesch, ex prefetto fascista, poi ufficiale dell'Ovra e informatore personale di Mussolini. Il 14 marzo il giornalista Franco De Agazio viene giustiziato con 4 colpi di pistola dalla Volante Rossa. Dopo l'8 settembre ha aderito alla Repubblica di Salò. Dopo la liberazione viene processato per collaborazionismo e condannato a 8 anni e 4 mesi di reclusione. Uscito dal carcere, grazie all'amnistia di Togliatti, fonda il Meridiano d'Italia con Giorgio Pini, altro fervente fascista. Il 14 aprile una bomba a mano viene lanciata contro la Casa del Popolo Garanzini, nei pressi della quale vengono rinvenute altri 2 ordigni inesplosi. In maggio un grosso traffico di armi viene scoperto a Novara dalla polizia. Dietro ci sono l'uomo qualunque, il MIS e un suo gruppo clandestino, l'Organizzazione Giustizia Speciale, composto da ex militi ufficiali delle Brigate Nere. Nel maggio del 1947 il PC viene estromesso dal governo. Togliatti dichiarerà: «Bisogna impedire che il partito e le masse che ci seguono scivolino in posizioni che conducano alla lotta e alla insurrezione armata». A giugno 1947 Giulio Paggio, il comandante della Volante Rossa, scampa una seconda volta ad un attentato. Qualche giorno dopo, mentre sta camminando da solo, viene aggredito e percosso da 5 sconosciuti. Anche questa volta se la cava per miracolo. Il 12 giugno, davanti alla sezione Duomo del PC, viene ritrovato un tubo con 300 grammi di esplosivo. Accanto ci sono un manifestino del Partito Democratico Fascista, una foto di Mussolini e un teschio di metallo. Il 16 giugno la Volante contrattacca. I fascisti che hanno aggredito Paggio sono soliti riunirsi nel bar di Renato Bonemazzi, contro il quale vengono sparati 3 colpi. Ci sono alcuni feriti, dato che una volta entrati, i membri della Volante Rossa malmenano i fascisti presenti. Alla fine del bar di Bonemazzi rimane in piedi davvero poco. La notte tra il 6 e il 7 luglio, 2 militanti della Volante Rossa raggiungono in bicicletta l'abitazione del fascista Fulvio Mazzetti, sparano dall'esterno alcuni colpi di pistola e lanciano una bomba a mano, che purtroppo rimbalza sulla zanzariera della finestra, ricadendo in strada, esplodendo proprio accanto a loro. Uno dei 2 compagni, Gandini, viene ferito da alcune schegge e viene arrestato. Verrà condannato il 17 gennaio 1949 a 6 anni e 8 mesi. Il 10 luglio si svolge una conferenza nella sede del settimanale del MIS, La Rivolta Ideale. All'interno della sala viene lanciata una bomba con la miccia accesa. Uno dei fascisti presenti la afferra e la lancia fuori dalla finestra. La bomba cade sul marciapiede. Un passante viene leggermente ferito. È il fratello del martire della Resistenza, Eugenio Curiel, che sta facendo il palo per la Volante Rossa, che ha organizzato l'attentato insieme al compagno che ha gettato la bomba, che riesce a fuggire anche se inseguito dai fascisti. Si conclude qui la prima puntata di Gioia e Rivoluzione, ma anche Sconfitte, dedicata alla Volante Rossa. La prossima volta concluderemo il racconto.